Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Prima puntata, ahimè, del cacciatore di libri versione estiva, parole e musica, questo appuntamento delle 16 del pomeriggio di sabato. Naturalmente il cacciatore di libri continuerà ad andare in onda nella versione tradizionale, sempre il sabato alle 6.45 per i mattinieri e alle 21.05 invece per chi magari a quell'ora è in macchina e sta uscendo. Veniamo però ai libri di oggi. Il primo libro di cui vi parlo mi ha veramente affascinata, si intitola Sa Reina, è scritto in lingua sarda sostanzialmente il titolo, solo il titolo, e significa la regina. L'ha scritto Simone Caltabellota ed è pubblicato da Ponte alle Grazie. Mi è piaciuto molto questo libro perché parla di Sardegna, parla anche, ma non solo, di Sardegna arcaica, ma lo fa senza stereotipi, insomma non è il solito romanzo sulla Sardegna. Parla anche di tradizioni sciamaniche sarde, che effettivamente non sono molto note. Insomma, Simone Caltabellota ha avuto un approccio originale a questo romanzo, così come sono originali le canzoni che lui ha scelto per accompagnare questo romanzo, e di cui appunto ne state sentendo uno. Allora, i protagonisti di questo romanzo sono tre. Innanzitutto c'è la voce narrante, Davide, un uomo che da piccolo, insomma, andava spesso in Sardegna a trovare i parenti, ma ormai non ci va più da tanti anni perché il padre ha segnato, come dire, un confine netto fra la Sardegna e il cosiddetto continente. Allora, iniziamo con Simone Caltabellota. Chi sono questi amici di Davide, il protagonista? Sono due amici speciali. Uno è un ragazzo più giovane di Davide, perché Davide ha meno di 40 anni, è un momento di svolta della sua vita, anche se lui non lo sa, è un momento di, come posso dire, di riconoscimento di sé che dovrà attraversare, in cui si dovrà incontrare. Sì, questo è anche un romanzo proprio di formazione, ma forse più di ricerca interiore. Sì, credo di sì. E poi ci sono con lui Leo, che appunto è più giovane, ha 25 anni, e quello con cui lui va a vedere concerti, e con cui forse insieme a cui si illude di essere ancora veramente un ragazzo e non un uomo. E Leo si trova anche lui in un momento molto particolare della sua vita, perché ha appena finito la storia d'amore più importante della sua esistenza, e quindi è smarrito. Insieme a loro invece c'è, per ultimo, per terzo, un uomo più grande di loro, che è Lucien, che è un rocker sciamano archeologo inglese, che è il motivo per cui loro sono andati in Sardegna, è il motivo per cui Davide torna in Sardegna dopo tanti anni. Perché Lucien ha un progetto particolare. Lucien ha un progetto, uno studio sulle tombe dei giganti, che sono questi monumenti funerari straordinari diffusi lungo tutta la Sardegna. E sono diffusi in tutta la Sardegna e sono monumenti che tutt'oggi rappresentano veramente dei portali, secondo me dei portali di pietra verso altro. Sono dei monumenti che esistono realmente, ma che sono legati più ad una tradizione, diciamo, sciamanica anche. Sì, io credo che questa tradizione sotterraneamente non si sia mai interrotta. È quello che sperimenteranno di persona i tre protagonisti del romanzo lungo il loro viaggio. E infatti loro viaggiano attraverso la Sardegna, in particolar modo guidati da un amico del papà di Davide. Paolo Vacca. Paolo Vacca, che poi tu hai detto... Esiste veramente, si chiama Paolo Vacca. Ed è una persona straordinaria. E non si è arrabbiato per essere stato messo nel libro con il suo nome e cognome. No, è stato contento. È stato contentissimo. Allora, questi ragazzi girano per la Sardegna alla ricerca di queste tombe dei giganti, appunto. E soprattutto vanno alla ricerca, come dicevo prima, forse di un sé interiore, perché ognuno di loro è alla ricerca di qualcosa. Sì, loro però non lo sanno. Loro non lo sanno, infatti, sono inconsapevoli, e questa L'unico forse... L'unico che lo sa è Lucien. Anche forse perché è il più grande, però sicuramente gli altri non lo sanno. Il padre di Davide non è molto contento che lui vada alla ricerca delle sue radici. Il perché forse non possiamo subito svelarlo, però c'è qualcosa che si è interrotto nella storia di questa famiglia. Il padre di Davide è spaventato dal fatto che suo figlio, che lui continua a ritenere un ragazzo, non un uomo, si trovi a dover affrontare determinate situazioni nel paese e nei luoghi dove appunto lui, cioè il padre, è cresciuto e da cui è scappato. E quindi c'è questa presenza lontana da Roma, attraverso il telefono, poi con vari problemi, con varie impossibilità di comunicazione, perché ecco, questa è una cosa reale. Sulla maggior parte delle tombe dei giganti, che sono centinaia lungo l'isola, non c'è campo. Non c'è campo del cellulare, comunque ecco, qui non Quindi si può sono luoghi spiegare, della però solitudine, sono insomma, luoghi anche. di grande magnetismo e sono luoghi della solitudine assoluta, però anche luoghi appunto per questo in cui probabilmente è ancora possibile incontrare se stessi, uscire da sé per ricongiungersi a qualcosa che va oltre se stessi. Nel tuo romanzo, Sareina, tu fai spesso il gioco del dentro e del fuori, cioè a volte non si capisce se i personaggi, il protagonista sta sognando, ha delle allucinazioni perché a un certo punto assumono anche delle droghe, l'erba sardonia, appunto questa droga che esiste solo in Sardegna, e non si capisce appunto se sia realtà o verità. Perché ti è piaciuto così tanto fare questo gioco? Perché forse io vedo la realtà così e cerco di tradurla in narrativa, in letteratura, in questo modo. Io credo che la realtà, cioè che il dato reale, sia sempre solo un punto di partenza per andare altrove. È un necessario punto di partenza perché non possiamo prescindere dalla realtà visibile, diciamo così, visibile, materiale, tangibile, per raccontare le storie e per i nostri viaggi interiori e non. Però bisogna andare, uno scrittore, almeno io credo che uno scrittore ha sempre questo come obiettivo, superare la realtà e arrivare altrove. Cioè la realtà è una porta finestra, secondo me. Ecco, mi piace l'immagine della porta finestra, una porta finestra attraverso cui si può andare altrove. E tu attraverso la scrittura di questo romanzo, che è il tuo secondo romanzo, il primo era Il giardino elettrico, pubblicato da Bompiani, hai trovato qualcosa di altro? Sei andato anche tu altrove, oltre? L'ho scritto per questo, quindi spero di sì. Diciamo che l'ho scritto proprio per capire meglio, indagare determinate cose e soprattutto immergermi in un'oscurità per poter poi riemergere alla luce. Il nome e il titolo di questo romanzo è Sareina, la regina, che è un albero che esiste veramente in Esiste Sardegna. veramente nel Sulcis Iglesiente, appena fuori Villa Massargia, che è il paese di mio papà. Ed è uno degli ulivi più antichi del Mediterraneo, se non il più antico, ed è sicuramente il più grande del Mediterraneo, 18 metri di circonferenza, e custodisce, per come la vedo io, la valle del Sulcis da sempre, e probabilmente mette in contatto, questo almeno appare a Davide e ai suoi amici, mette in contatto il mondo ultraterreno, infero, con quello celeste. E infatti attraverso quest'albero enorme, così insomma significativo ed evocativo, Davide, il protagonista, recupera anche un po' il rapporto, per esempio, con suo nonno. È come se lui vedesse suo nonno, che aveva visto solo quando era piccolo, col quale aveva avuto insomma pochi rapporti perché parlava appunto un'altra lingua, non era certo, non è certo i nonni così affettuosi come magari ci sono ora. Quindi attraverso quest'albero recupera una parte del suo passato. Sì, il nonno che non c'è più da molti anni e succede qualcosa di strano, ma necessario, cioè che nonno, padre e protagonista diventano un'unica cosa insieme all'albero. E l'albero io lo immagino nel romanzo, un narratore che Davide non lo dice, lo dicono altri, che sono le voci degli antichi per me in alcuni brani in corsivo che Sì, punteggiano la storia, è una sorta di asse axis mundi, di asse del mondo, e quindi è fuori dal tempo, e cioè in esso e attraverso di esso ci si può incontrare fuori dal tempo. Quello che succede appunto a Davide, che contemporaneamente sarà suo padre e suo nonno. perché tu giochi spesso con i piani temporali anche in questo romanzo, dicevamo prima, fantasia, realtà, sogno, realtà, ma anche spazio-tempo che si mescolano spesso e volentieri. Sì, io credo che il tempo, che la freccia del tempo, ma non lo dico io, lo dicono i fisici, la freccia del tempo non va soltanto in una direzione. Noi ne vediamo solo una direzione, ma il tempo, oltre ad essere circolare, probabilmente è tante cose. Io mi sono immaginato nel romanzo che che il tempo sia come un lago, cioè si può entrare nel tempo come tuffandosi in un lago, andando sempre di più in profondità. Molte di quelle cose che stiamo dicendo si capiscono forse anche di più leggendo il libro, perché ovviamente non è un libro solo di trama, ma è un libro di situazioni, di emozioni e di giochi, come abbiamo detto prima, spazio-temporali. Una domanda banale che si fa sempre agli scrittori, quanto c'è di autobiografico, eccetera, e lo sappiamo che c'è sempre una parte di autobiografia nei romanzi. Io però, parlando con te, ho avuto proprio la sensazione che questo libro sia stato necessario per te. È così? Io non scrivo molto, ho scritto due libri finora, due romanzi finora. Scrivo nel momento in cui non posso farne a meno, altrimenti preferisco sempre leggere. Però se proprio non posso fare a meno di immergermi in una storia, allora cerco di farlo in profondità e soprattutto cercando di perdermi dentro la storia per poi ritrovarmi, magari diverso, come succede ai protagonisti. Per cui sì, sicuramente nasce da una necessità, ma io credo che dovrebbe sempre essere così, e probabilmente è così per tutti coloro che scrivono, o quantomeno è il primo impulso alla scrittura. Tu hai detto che leggi molto, sicuramente per piacere, ma anche per lavoro, perché sei un editor, sei stato direttore editoriale di una casa editrice, la Fazzi, hai curato l'opera di John Fante in Italia, hai scoperto dei casi editoriali come per esempio Stephanie Meyer, l'autrice, insomma, dei vampiri, l'hai portata tu in Italia. Che approccio hai avuto con la tua scrittura? Tu sei quello che mette, come dire, i segni rossi sui romanzi degli altri. Quanto sei stato severo con te stesso? Per tanti anni ho praticato una forma di autocensura feroce. Avevo anche paura di mettermi a nudo, proprio perché il mio lavoro mi costringeva a essere verso di me più severo di quello che ero con le opere degli altri. Poi, in un periodo della mia vita di cambiamento assoluto, mi sono denudato di tutto e ho ricominciato a scrivere come facevo quando ero ragazzino, e che poi era il motivo per cui ho cominciato a lavorare nel mondo editoriale, perché scrivevo e leggevo. Questo è un romanzo anche, abbiamo detto, di formazione, di ricerca di se stessi più che altro, ma anche di grande amicizia, di un'amicizia al maschile fatta di solidarietà e di condivisione e di cose. Rock and roll anche. E di rock and roll, infatti, perché la musica c'entra in questo è libro. È fondamentale nella mia vita, in questo libro e in tutto. È qualcosa che non mente. I libri possono mentire a volte, cioè possono ingannare. Possono ingannare con le parole, dici questo? Possono ingannare, cioè possiamo essere ingannati non tanto dal libro, ma volerci ingannare attraverso un libro, nel senso che magari per condizionamenti culturali, sociali, ideologici, tendiamo a volte a giudicare un libro in un modo indipendentemente da quello che è la sua reale qualità. Invece con la musica c'è un rapporto più viscerale, diretto. Io credo di sì, per me è così. Certain half deserted streets of rain, you know I'll travel till I found you, but I don't know where or when, so I. E questo era Simone Caltabellotta che ci ha parlato del suo romanzo Sareina, pubblicato da Ponte alle Grazie. Questa è un'altra delle canzoni che lui ha scelto per accompagnare il suo romanzo, Julian Cope, Planetary Sit-In. Tie you down, but I can't tie you down. Your spirit never weakens, and you catch me in a cloud of loving, caterwauling 90 degrees on a trapeze of life. Il cacciatore di libri. Man Bad World dei Tears for Fears è stata scelta dall'autore del romanzo L'inganno della morte, pubblicato da Kowalski. Chi è lui? È Guglielmo Scilla, 26 anni, che è meglio conosciuto sul web con il soprannome di Wilwush. Lui è veramente un fenomeno in rete, amato soprattutto dai giovanissimi. Ha un suo canale proprio su YouTube dove carica i video veramente sempre molto ironici, video che hanno visualizzazioni da record veramente. E così la nostra intervista è iniziata proprio da qui, dai suoi record sul web. Sentiamolo. Guarda, è pazzesco pure per me, perché sono stati visti 70 milioni di volte insieme. Sì, è vero, è abbastanza, insomma, di impatto. E sì, a livello web sono abbastanza virali, che vuol dire che potrei pure essere una rottura, però mi piace pensare che non sia così, che in qualche modo, non lo so, sia stata un po' fortuna, un pochino, non te lo so dire, qualcosa. Ti sottovaluti, insomma, sono dei video comunque molto ironici, divertenti, sì, che vengono seguiti soprattutto da un pubblico di giovani. Assolutamente. Ti dà un po' fastidio essere considerato un fenomeno? Oddio, no, è come essere considerati troppo belli. È presente le modelle che dicono no, non mi piacciono i miei piedi, perché giustamente è l'unica cosa che a loro rimane di disprezzare, perché per il resto sono delle strafighe. No, non mi piace essere considerata una YouTube star, queste cose, ma non tanto perché sia un termine sbagliato, ma perché non mi piace pensare che da un mezzo così tra virgolette umile come il web, perché permette veramente da una caverna di uscire fuori senza uscire dalla caverna, non mi piace pensare che ci possa essere dietro tutta quell'entourage di gossip, di chiacchiericcio, che invece è prettamente legato a un social network che permette a dei ragazzi di mettersi in contatto con altri ragazzi, e la finisce. Quindi è una cosa che è un pochino come i figli, non lo so, non mi piacciono le persone che incominciano a farci le foto in prima pagina, magari delle persone famose che subito li buttano così. A me quell'aspetto è molto privato, e dare una spettacolarità di quella cosa è una cosa che mi fa strano, non che poi mi dia fastidio. Turbi più di tanto, esatto, insomma. Cioè, nel senso... Ecco, però essere considerato un fenomeno giovanile nel momento in cui si pubblica il primo romanzo può essere un po' a volte controproducente, nel senso che immagino che i critici, insomma, ti abbiano accolto un po' con la puzza sotto il naso. In questo senso ti ha dato fastidio questo passaggio? Guarda, qui cito Paolo Coelho che, se non sbaglio, ha detto gli artisti creano i lampioni, i critici ci pisciano sopra. Una cosa simile ha detto. Quindi, diciamo, non è per qualcosa, io non leggo mai quello che viene detto di me, sia perché le cose... Comunque sono del parere che un complimento ti potrebbe... non lo so, far sentire qualcuno incominciare a montare la testa, e una critica potrebbe invece farti sentire uno schifo. Quindi meglio rimanere comunque con, e cercare di filtrare, perché tanto le voci arrivano comunque. Sicuramente esistono anche le critiche costruttive, però è vero, però quelle solitamente ti arrivano dirette, sono come gli aghi, trapassano tutto. Assolutamente, immagino di sì. Comunque un ragazzo che da YouTube si mette a scrivere, uno è un pochino come la, non lo so, il ragazzo che per nessun merito incomincia a parlare. Una cosa però che a me piace pensare del web è che tutti quei contatti, forse qualcosa magari ci sono, perché magari qualcosa l'hanno presa dai video, magari qualcosa di comunicativo, magari qualcosa è riuscita a entrare anche solo a 10 persone. E la possibilità di scrivere più che altro è stata ancora più tosta, e ancora più secondo me azzardata, perché L'inganno della morte non è un libro che uno si aspetterebbe da me, non è un libro comico, non è un libro che vuole far ridere nessuno, e quindi lì è stato ancora secondo me più interessante per me. È stata una rottura rispetto al personaggio che ti ha ricreato. E allora veniamo al romanzo. Ecco, come lo definiresti? Un fantasy o qualcosa di diverso? È sicuramente qualcosa di diverso. Io naturalmente lo avvicinerei al fantasy tutta la vita, però c'è un aspetto noir onnipresente, gotico e soprattutto anche un po' thriller giallo. Ti spiego subito anche perché, nel senso, la storia parla anche un pochino da sola. È un ragazzo, questo Daniel, che muore. Una volta morto, viene catapultato in questo mondo per insomma, per renderlo anche più facile da immaginare, Tim Burtoniano, Neil Gaiman, comunque questi che sono questi grandi del gotico in qualche modo. E una volta morto, però, cerca il suo assassino. Volevo un pochino ribaltare quello che è l'immaginario, comune del morto e del detective. Mi piaceva che ci fosse l'opposto. E da quella. Però indaga, come dire, dall'oltretomba, mettiamola Esatto. così. Assolutamente, quindi naturalmente è un libro che sa essere leggero, che sa fare un pochino paura, che si basa molto poi sull'amicizia, sull'idea di. E soprattutto non tanto sull'amicizia, ma sul bisogno. Scusami se faccio un discorso forse un pochino troppo serio per me, non prendetemi sul serio, ma sul bisogno dell'altro per poter arrivare da qualche parte. Io credo molto negli amici che sono quelli che ti procurano le ferite, quelli che veramente ti fanno cambiare e ti curano le ferite, quelli lì che magari ti hanno fatto male, ma credo anche molto nei nemici, perché se non hai nemici non direi mai cavolo, prendiamo forza da quella persona che non crede in me per poter forse io credere un pochino di più in me. Quindi c'è sempre bisogno di qualcun altro per arrivare da qualche parte. A proposito di Tim Burton, la copertina di questo romanzo L'inganno della morte è molto Tim Burtoniana, mi ha ricordato La sposa La sposa cadavere, cadavere. è veramente strepitosa, insomma. A che tipo di pubblico, tu hai pensato di rivolgerti con questa opera prima? Guarda, secondo me il pubblico che può essere affascinato da una storia come questa, quindi così fantastica, è sicuramente dai veramente 12 anni, se magari non avete paura troppo facilmente, perché magari ci stanno delle cosine un pochino così. Però dai 12 anni mi darei la mia età, comunque 25. Io farei però poi un salto nel mezzo, perché credo che le generazioni, bene o male, siano un pochino come le collane, una perla bianca, una nera, una perla bianca, una nera, e non ci si parli con quella che è pienamente a contatto con te. Ecco perché poi salterei subito ai 40 e ai 50, quindi ai genitori di quelli lì che poi hanno educato la mia generazione, che quindi pensa come i genitori, che non. Scusami, pensa come i nonni o comunque le persone più grandi. Credo in quello, cioè è un discorso un pochino strano, a pettine, è come. E quindi. Beh, è bella questa visione che insomma un romanzo possa saltare una generazione e andare dai giovanissimi ai loro genitori, insomma, e così Esatto, via. sì. Quando ti sei messo a scrivere, no? Che tipo di atteggiamento hai avuto anche nei confronti della scrittura? Insomma, non è poi così facile creare un romanzo e strutturarlo in maniera seria. Guarda, infatti è proprio qui che subentra la chicca, cioè io questo romanzo ho iniziato a scriverlo a 16 anni. È stata la mia prima passione la scrittura. Io appena finivo i compiti. Io a 13 anni mi innamorai della lettura grazie a Kafka. So che fa un sacco La fighetto. Metamorfosi avrei letto, no? No, ho Mi letto racconti. Lettera al padre. Mamma mia, tu non puoi capire che cosa ha fatto Lettera al padre nella mia vita. Io che un pochino mi ritrovavo molto in quella storia, ti giuro, quel libro io me lo ricordo ancora, lo lessi all'interno del mio sgabuzzino dei miei genitori, scusami, dei miei nonni, con questo odore di naftalina pazzesco, me lo lessi tutto un pomeriggio, velocissimo, da lì lessi molto Kafka e poi pian piano feci come Benjamin Button, quindi regredii, Harry Potter e quant'altro, crescendo però col tempo ho fatto così. E quindi dicevo, leggevo, io ho sempre creduto molto nell'invidia, cioè l'invidia secondo me è la più grande forma di ammirazione. Nel momento in cui invidiavo chi scriveva dei romanzi, dicevo cavolo, quanto ti invidio? Pensavo cavolo, quanto invidio quello che stai facendo, cavolo, quanto vorrei farlo anch'io. Vabbè, la scrittura è una cosa che chiunque può fare, l'importante è veramente avere un computer, non consiglio carta e penna perché poi diventa veramente difficile nel momento in cui ci sono le correzioni, però iniziai a scrivere a 16 anni, poi lo abbandonai perché comunque con lo studio, crescendo, il liceo che si avvicinava alla fine e quant'altro, Finché non ebbi poi la possibilità di parlare con Daniela, la mia editor, e dire: senti, io avrei una storia, una cosa totalmente diversa. Lì l'ho ripresa in mano, è stato difficile, ma io ho sempre avuto la passione per le trecce, capito? Che devi intrecciare tutto e non lasciare sfuggire nemmeno un capello fuori. Anche perché tu avevi già scritto un altro libro che tecnicamente si definisce Nella varia, era 10 regole per farla innamorare, e in quel caso avevi anche in quel caso avuto un grande successo, però il romanzo è stato qualcos'altro. Diciamo di sì, nel senso io poi scrissi 10 regole per farmi innamorare con una ragazza, perché mi piaceva comunque, era un romanzo simpatico naturalmente, non voleva minimamente prendersi sul serio e lo scrissi però con un punto di vista femminile di una ragazza che conoscevo molto bene perché è una delle mie più care amiche. Collaborai anche a quella che è stata una sorta di antologia di Freaks, che è una webserie alla quale ho collaborato, comunque prendila così senza bisogno di approfondire. Questa è la prima volta nella quale mi trovavo da solo e avevo la possibilità di poter fare quello che volevo io, quindi sicuramente ha avuto un'importanza maggiore rispetto agli altri solo per quanto riguarda la paternità del prodotto. Allora, star della rete, abbiamo visto, conduttore radiofonico a Radio DJ, lo diciamo perché insomma qui a Radio 24 non abbiamo problemi a parlare di scrittori che lavorano in altre radio, perché no, non abbiamo steccati. Adesso anche autore di romanzi. Cosa vuoi fare da grande? È una bella domanda. Guarda, solitamente mi tranquillizzo perché vedo i quarantenni che non sanno cosa fare da grandi e sono grandi. Poi penso, non voglio essere come loro e quindi dico, cavolo, bisogna muoversi. A me piace molto l'idea di continuare con YouTube, però YouTube non è mai stato un lavoro, è sempre stato una sorta di diario che ho portato con me. Quindi sicuramente forse crescerà con me e magari interesserà ad altre persone e quella lì è una cosa che viene, che va, non puoi saperlo. Io amo molto raccontare, amo le diverse forme di comunicazione che ti permettono la radio e che soprattutto ti permette la scrittura. Io della scrittura quello che amerò sempre è che al contrario del cinema, e non lo dico come una critica perché il cinema è come un bicchiere d'acqua, riesce a mandarlo giù sempre, la scrittura è un pochino più tosta, devi anche magari a volte essere più allenato, devi avere la voglia di metterti lì a leggere, non puoi viverla in maniera passiva, però ha la forza enorme di avere dei costi che sono che non richiede un drago non richiede dei costi, un amore distrutto non richiede nulla se non i costi dell'immaginazione di chi ti legge, che riesce a creare tutto quello che tu suggerisci solamente. Quindi è un mondo così, ma poi tu che comunque curi questa rubrica, ma che, non te lo dico a te, lo dico naturalmente a chi ti ascolta, però è un qualcosa di così grande, di così magico che sinceramente spero proprio di poter continuare e magari vedere che altri suggerimenti ci potrebbero essere. Magari il mio io sedicenne continuerà a dirmi: senti, ma fai questo, senti, fai quest'altro, e poi a un certo punto si crescerà. E questo era Guglielmo Scilla, meglio conosciuto come Wilwush, e il suo libro è L'inganno della morte, pubblicato da Kowalski. Questa, come dicevamo prima, è l'ultima puntata del Cacciatore di Libri in versione estiva, parole e musica. Comunque trovate queste e le altre puntate su www.radio24.it. Noi continueremo a seguirci con la versione tradizionale del Cacciatore di Libri il sabato alle 6.45 e poi alle 21.05. Buona lettura da Alessandra Tedesco.